Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Ho aspettato fin troppo tempo, mi sono gustato puntate e puntate nell'attesa di quella che io ritengo la madre di tutte le storie, almeno per quanto riguarda il calcio, la storia delle storie, perché la vita che raccontiamo oggi è quella di un giocatore che è considerato uno dei migliori al mondo dal punto di vista tecnico, uno dei più famosi, uno che ha detto di sé: se non fossi stato così bello non avreste mai sentito parlare di Pelé. È una vita assolutamente piena di colpi d'ala positivi, negativi, una vita di intemperanze quantomeno, e anche di un amore smodato per la bottiglia. Io credo che voi abbiate capito di chi sto parlando, però io voglio ringraziare un nostro ascoltatore che è Stefano Visentin da Treviso. Buongiorno Stefano. Ciao Enrico e grazie. Stiamo parlando naturalmente del grande George Best, e tu sei uno di quelli che ci ha chiesto di parlare di Best, quindi dici perché vuoi che noi si racconti la storia di questo unico campione. Allora, penso che George Best sia stato, se non il più grande giocatore di tutti i tempi, è stato il primo ad essere definito così, perché la sua è una storia piena di successi ed eccessi. Esatto. E penso che la definizione che diede Bob Bishop quando lo vide giocare per la prima volta, scrisse a Matt Busby: "I found you a genius." Sì. Sia la definizione più azzeccata di tutti i tempi. Vederlo giocare è qualcosa di incredibile. È come vedere un bambino che vuole a tutti i costi la palla e non mollarla mai. Riesce a infiammare il pubblico e a regalare una gioia immensa. Poi la sua storia e l'icona che è diventata, i capelli lunghi, certo, i calzini abbassati in quegli anni, lascia senza parole. E poi la vita vissuta al massimo, di cui non si è mai pentito in nessun caso, anche dalla passione per la bottiglia, che purtroppo è il l'ho suo portato, demone. Certo, è stato il suo demone. Stefano, ti ringrazio e buona puntata. Grazie mille Enrico. Ciao. Ciao. E quindi iniziamo a parlare di George Best citando un'altra frase molto famosa: ho speso molti soldi per alcol, donne e macchine veloci, il resto l'ho sperperato. Io ce l'ho in una maglietta questa frase, e in questa frase è riassunta la vita di George Best. La differenza tra un semplice calciatore e un campione la fa la tecnica, il dribbling, la visione di gioco. Però la differenza tra un campione e George Best è stato intanto il modo in cui Best ha interpretato la sua fama, e poi il suo essere al centro dell'attenzione sia dentro al rettangolo di gioco che fuori dal mondo del calcio. E lui è la prima vera pop star del calcio, un uomo che è riuscito a far parlare di sé per le sue avventure amorose, per il suo look, per le auto sportive, per come ha interpretato la vita in un periodo in cui il calcio inglese era molto compassato, vedeva i suoi giocatori al centro dell'attenzione solo per i 90 minuti della partita della domenica. Invece per George Best la vita vera era quella che in tutti gli altri giorni della settimana lo portava ad essere sempre al centro dell'attenzione della stampa e della televisione, e non nella maniera un po' cialtrona e cafona dei tatuati di oggi, perché anche oggi hanno le belle macchine, le donne eccetera, ma non hanno nulla che possa assomigliare neanche lontanamente allo stile di George Best. Ma partiamo con ordine, andiamo a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove il 22 maggio del 46, segno dei gemelli per dire, nasce il primogenito di Dick e Ann Best. Io ero un ragazzino come tanti altri. Mi piaceva il calcio e giocavo per strada. All'epoca ero basso e magrolino, ma a me non importava nulla, perché volevo giocare anche con quelli più grandi di me. A 13-14 anni qualche squadra era venuta a darmi un'occhiata, ma ero ancora troppo piccolo. George, oppure Giorgi come lo chiamano i suoi coetanei, è molto magro e peraltro si trova a frequentare una scuola che ha come squadra squadra più rappresentativa alla squadra di rugby e quindi gli passa la voglia di andarci. Il padre a un certo punto è costretto a fargli cambiare scuola, anche se ovviamente, come potete immaginare, Georgie Best non è uno studente modello. Nel 61 lui ha 15 anni, continua a essere magro, leggero, però anche molto agile. Se gli si mette una palla tra i piedi, fa dei numeri di quelli che si vedono solo nei campi di calcio della prima divisione, tipo quello del Manchester United, per dire. Dobbiamo subito dire una cosa riguardo all'ambiente in cui cresce Georgie Best, perché lui è nordirlandese. Siamo agli inizi degli anni 60 e Belfast non è proprio il posto migliore per far crescere un ragazzo. Anche perché la famiglia Best è protestante, però gran parte della popolazione è cattolica e si sente oppressa dalla corona inglese. E gli inglesi sono stati degli invasori in Irlanda. Siamo lontani ancora dalla lotta armata che inizierà negli anni 70, però i gruppi irlandesi e cattolici si guardano con molta diffidenza e il clima diventa ogni giorno più difficile. Si racconta che ci siano dei bambini cattolici che non hanno mai conosciuto un bambino protestante. E viceversa, insomma, se ci fosse un'occasione per cambiare aria andrebbe veramente presa al volo. Il calcio potrebbe essere una via d'uscita, anche perché ci sono molti osservatori che vanno in giro per i campetti del Regno Unito in cerca di nuovi talenti. Uno di questi si chiama Bob Bishop, lavora per il Manchester United e un giorno assiste a una partita in cui gioca lui, Georgie Best, che ha 15 anni e gli altri hanno un paio d'anni più di lui, però Georgie è il migliore in campo e Bishop pensa che sia il caso di fare un salto a casa Best. Manchester United came in. Venne uno del Manchester United, venne a parlare con mio padre, dissero che volevano farmi provare a giocare da loro. Quando mio padre me lo disse, io cominciai a correre, a saltare per casa e poi corsi fuori a dirlo a tutti i miei amici. E a Manchester non c'è un allenatore qualunque, c'è una nostra vecchia conoscenza, Matt Busby. L'abbiamo raccontata la sua storia. Lui è quell'allenatore che è stato capace di fare intanto da padre ai suoi Busby Babies, li hanno proprio chiamati così, e poi ha lavorato sodo per ricostruire la squadra di talenti che nel 58 era stata decimata dal terribile incidente aereo di Monaco di Baviera, quello in cui aveva rischiato di morire lo stesso Busby e il capitano, il grande Bobby Charlton, e insieme hanno un solo obiettivo: ricostruire la squadra del Manchester United e andare a vincere quella Coppa dei Campioni, che è il solo obiettivo capace di spazzare via i fantasmi della tragedia e poi di dare all'Inghilterra quel titolo che l'Inghilterra non era ancora riuscita a vincere. Busby riparte da zero, recluta attorno al capitano Bobby Charlton giovani talenti per creare una nuova squadra che sia imbattibile. Bene, Bishop ha visto giocare George Best ed è stato molto chiaro con Busby. Gli ha mandato un telegramma con scritto solo questo: credo di aver trovato un genio. Il falco e il gabbiano. Siamo arrivati a Manchester, dove il giovanissimo Georgie Best, con 15 anni e un grande entusiasmo, si trova al cospetto dei grandi campioni del Manchester United. Dall'inizio non ce la fa, dopo due giorni di prove scappa, torna a Belfast, è troppo lontano da casa, gli sta capitando una cosa che è troppo grande per lui. Bene, a Manchester non c'è un uomo qualunque, c'è Matt Busby, che senza pensarci due volte parte, va a Belfast di persona, bussa a casa Best, vuole convincere quel ragazzino a tornare all'Old Trafford. Mi ricordo quando venne a casa, sia la prima che la seconda volta. E la seconda volta si ricordava il nome di mio padre, il mio, cosa aveva bevuto, ricordava tutto e faceva di tutto per metterti a tuo agio. Un uomo eccezionale, non solo con me, era così con tutti. Il carisma e l'amore di Matt Busby convincono il giovane Georgie, che si trasferisce a Manchester. Per due anni si allena con la squadra riserve e dal momento che peraltro lui è nordirlandese e a quell'epoca non è possibile ingaggiare giocatori non inglesi così giovani. A 17 anni arriva il giorno del debutto, solo un'apparizione. Pochi mesi più tardi, alla sua seconda convocazione, Best segna il suo primo gol davanti agli occhi luccicanti di un Matt Busby che in quei due anni lo ha preparato a dovere, gli ha fatto aumentare il tono muscolare, lo ha trasformato in un giovane adulto e maturo. Che vittoria! 5-1 contro il Burnley! E Questa giornata memorabile sarà sicuramente ricordata negli anni a venire per il primo gol in campionato di George Best. Il primo di una lunga serie, ci auguriamo. Gran gol e grande vittoria per il Manchester United. La stagione è quella del 63-64, Best segna 6 gol in 26 partite. Non è tanto, però si fa notare per le incredibili giocate che fa in campo. Indossa la maglia numero 7, quella dei fantasisti in quegli anni. Corre su e giù per la fascia, è la classica ala. Poi si accentra, riesce a saltare il difensore, porta la palla fino a dentro la rete, perché lui della palla è innamorato. I suoi compagni lo vedono scendere in campo con una grande euforia. A fine partita lui è talmente su di giri che se dipendesse da lui giocherebbe per un altro paio d'ore, e Busby continua a sottoporlo a pesanti sedute di allenamento perché non vuole che il suo giocattolo migliore si rompa, travolto dalla tipica irruenza dei difensori inglesi di quegli anni. Poi il Manchester nel 65 ha vinto il campionato, c'è da disputare una Coppa dei Campioni, è un obiettivo da non fallire. Per un posto nelle semifinali della Coppa dei Campioni 1966 il Manchester United incontra i favoriti, il Benfica. Il nostro Beniamino Best da spettacolo, è gol! Micidiale colpo di testa all'incrocio dei pali di Best, straordinario! Ed ecco di nuovo Best, dribbla due avversari, entra in area. Sì, ancora Best per il 2-0, George è scatenato stasera e non riesce a contenere la sua gioia. Questa era la telecronaca presa dal film sulla vita di Best, che racconta i suoi due gol contro la squadra che in quel momento era considerata forse la più forte di tutte, il Benfica di Eusebio. Il Manchester lo incontra nei quarti di finale e la partita finisce 5-1 per il Manchester. I primi due gol li segna lui, George Best, lo fa in meno di un quarto d'ora. Quella partita è una sorta di consacrazione per il giovane talento nordirlandese. A Manchester diventa l'idolo dei tifosi, sulla prima pagina del principale quotidiano sportivo esce un titolo, il quotidiano sportivo portoghese, George Best e il Beatle, il quinto Beatle, il taglio dei capelli a caschetto gli fa guadagnare questo soprannome che lo accompagnerà per tutta la carriera. Poi in realtà quella Coppa dei Campioni finisce male per il Manchester, perché viene inopinatamente eliminato in semifinale dal Partizan di Belgrado, che andrà in finale con Real Madrid, che eliminò l'Inter. E quindi il sogno è solo rinviato. E conquistare a 19 anni le prime pagine dei giornali è una di quelle cose che possono trasformare la vita di chiunque. Lui comincia a assaporare il gusto di essere un giocatore famoso, desiderato dalle ragazze, che si presentano sempre più numerose agli allenamenti della squadra. E lui era anche particolare, insomma, lui disse: se io non fossi stato così bello non avreste mai sentito parlare di Pelé, perché in effetti piaceva tantissimo alle donne, ma questo amore per le donne lui lo alternava alla giusta ricompensa, che era quella di festeggiare la vittoria facendo una bella bevuta al pub con i compagni di squadra. Insomma, le donne e l'alcol diventano i regolari compagni di viaggio di Best, che rende però tutto accettabile perché quando scende in campo gioca, segna e diverte. E arriva il 1968, nuovo test del Manchester United sulla Coppa dei Campioni. Questa volta bisogna vincere, è una coppa che nessuna squadra inglese ha ancora sollevato, c'è ancora lo spettro della tragedia di 10 anni prima, dell'aereo caduto. Bene, Best ormai è una pedina insostituibile dei Red Devils, che battono il Real Madrid in semifinale e vanno in finale a Wembley a giocarsi tutto contro il Benfica di Eusebio e Cologna. 100.000 persone sono assiepate sugli spalti stasera a Wembley per la finale della Coppa dei Campioni edizione 1968 tra il Manchester United e i portoghesi del Benfica. Finale che consacrerà la regina del calcio europeo. Le due squadre si sono già incontrate nei quarti di finale dell'edizione del 1966. Davanti all'arbitro italiano Lobello, Charlton e Colugna si scambiano i gagliardetti della squadra. Un'intera nazione sta aspettando il momento della finale. Ogni giocatore sente sulle proprie spalle il peso di questa responsabilità. Bene, la sera prima della partita i giocatori in ritiro vivono i momenti di tensione, di raccoglimento, di concentrazione. E lui, come racconta nella sua autobiografia, decide di entrare nel clima prepartita trascorrendo la notte con una ragazza di nome Shu. Questa è una delle tante sue avventure sessuali che rendono il suo personaggio ancora più in linea con quello che sta accadendo in Inghilterra e nel resto del mondo degli anni 60. Un mondo psichedelico, un mondo fatto di libertà sessuale, anticonformismo, alcol, forse anche di droga, anche se questo, almeno quello, non è il caso di Best. Bene, lui si inserisce benissimo in questo mondo, anche se non sa che negli anni successivi questo mondo lo travolgerà. Ma per adesso stiamo salendo la scaletta di Wembley per una finale di Coppa dei Campioni. Il falco e il gabbiano. Oggi stiamo scartando come un cioccolatino ciò che ci siamo lasciati indietro volutamente per più di un anno: la storia delle storie del calcio, la grande pop star, il quinto Beatle. Stiamo parlando di George Best. Tra i tanti ce l'ha chiesto anche Stefano Visentin, che abbiamo sentito prima. Best è il calciatore nordirlandese che ha cambiato la storia della immagine dei calciatori nel mondo. Ma noi abbiamo anche Andrea Pettinello, ideatore del sito, della pagina Facebook Il Calcio Inglese, della pagina Twitter, insomma un punto di riferimento per tutti quelli che il calcio inglese lo amano. Buongiorno Andrea. Buongiorno, buongiorno a tutti. Senti, perché a distanza di quasi 50 anni, anzi di 50 anni, si parla di Best ancora come del calciatore più suggestivo di tutti? Ma io credo che a distanza di anni quello che lui è riuscito a fare, soprattutto fuori dal campo, l'umiltà, la chiarezza che ha sempre avuto oltre alle sue gesta, perché insomma ricordiamo che ha vinto il Pallone d'Oro, un giocatore che comunque annovera diversi trofei, però la sua schiettezza all'esterno del campo, tutti quei suoi vizi, come erano insomma le donne, l'alcol, le macchine, lo hanno avvicinato molto di più a un calciatore moderno, che mi può venire un Cristiano Ronaldo, sempre seguito da sponsor, lontano dalla realtà popolare. Lui si è sempre stato molto più vicino ai tifosi, al popolo, ed è questo che secondo me alla lunga e ancora oggi lo fa emergere come uno dei più grandi, al di là delle gesta sportive e comunque delle sue qualità tecniche. Lui diceva: se non fossi stato così bello non avreste mai sentito parlare di Pelé. Cioè Pelé, in effetti sì. Avrebbe potuto dare ancora molto Best, ha smesso di giocare a grandi livelli molto giovane. Quello che dispiace appunto è che è stato troppo distratto da questi fatti extra scalcistici, e che quindi in qualche modo ha dovuto comunque rinunciare al calcio giocato, perché certo, è stato preso troppo da vizi, come soprattutto quello dell'alcol. Credo che sia quello, certo, era anche la sua caratteristica, nel bene e nel male. Sì, nel bene e nel male, comunque che bevesse anche prima della partita, comunque riusciva sempre a dare qualcosa. Andrea, grazie mille, complimenti ancora per il calcio inglese. Grazie rete. A voi. Ciao Andrea. Grazie. Ma ricordiamoci che eravamo rimasti al 29 maggio 1968 allo stadio di Wembley, finale di Coppa dei Campioni, Manchester United contro il Benfica di Eusebio. Siamo ai tempi supplementari, perché dopo il regolamentare il risultato è fermo sull'1-1. Passano 7 minuti, al settimo del primo tempo supplementare c'è una lunga rimessa del portiere Stepney. Best prende il pallone, vince un contrasto, scappa via con la palla, arriva davanti a Enrique, il portiere del Benfica, lo scarta ed entra in porta con il pallone. È l'azione che sblocca la partita. Nel giro di 4 minuti gli inglesi vanno ancora in gol due volte, 4-1 per il Manchester United. Bobby Charlton ha l'onore di sollevare davanti al pubblico di Wembley la prima Coppa dei Campioni conquistata da una squadra inglese. Il colpo d'ala di George Best, che ala era con il numero 7, ha sbloccato la squadra, ha sconfitto la paura e ha cancellato i brutti ricordi. Best aveva già vinto il premio per migliore giocatore dell'anno poche settimane prima, dopo la semifinale con il Real Madrid. Bene, si aggiudica anche il Pallone d'Oro, raggiunge l'apice della sua carriera alla fine del 69. Però Matt Busby, che ormai ha ottenuto lo scopo, la missione della sua vita si è compiuta, Matt Busby annuncia il ritiro dal mondo del calcio. I ragazzi del Manchester United rimangono orfani. Tra tutti, quello che ne risentirà maggiormente è proprio lui, il figlio prediletto George Best. E ricordiamoci che lui ha solo 22 anni, ma da quel momento inizia per lui la parabola discendente della sua carriera di calciatore. È una storia inversamente proporzionale rispetto al numero degli impegni mondani, televisivi, alle feste, soprattutto ai festini con donne bellissime a cui partecipa. L'alcol diventa il suo miglior amico, il suo tipo di vita è ormai inconciliabile con il tipo di vita dell'atleta, anche se in quegli anni il calcio era meno atletico, però un minimo bisognava sapere rendere. Iniziano i primi ritardi agli allenamenti, a volte salta magari un allenamento completamente perché preferisce stare in compagnia di Miss Gran Bretagna, poi torna, entra in campo e magari non è neanche troppo sobrio, segna, mette tutti a tacere ancora magari per qualche settimana, per qualche mese. Questo è George Best, il resto sono solo chiacchiere. 7 febbraio 1970, sulla panchina del Manchester c'è un certo Mac Guinness, con il quale ovviamente Best non va d'accordo per nulla e il Manchester arriverà ottavo. Però quella data i tifosi se la ricordano perché il Manchester travolge il Northampton per 8-2 e Best passa alla storia per avere segnato in quella partita 6 gol. È un'impresa che gli vale addirittura un invito a Downing Street dal primo ministro Harold Wilson. Però questo è un episodio ormai sempre più sporadico, perché il rendimento di George Best sta calando fino al momento in cui nel 72 lui annuncia la sua intenzione di lasciare il Manchester United e il mondo del calcio. La gente mi chiede se questa sarà una decisione definitiva e io posso dire che probabilmente non tornerò più a giocare. Ci sono molte ragioni per questo. Principalmente il fatto che non mi diverto più. Tutto sta diventando un noioso lavoro e io non sono fatto per queste cose. Poi ci sono altri fattori esterni che stanno condizionando la mia vita. Il bere è uno di questi. General things, yeah. Nightlife and drinking. Pensate che questa è un'intervista rilasciata da un ragazzo di 26 anni. E lui usa la parola probabilmente lascerò il calcio. In realtà lui sta vivendo le sue insicurezze affogandole in una bottiglia di whisky. Però lui del calcio non può fare a meno, perché vuole giocare, vuole una squadra che sia in grado di ingaggiarlo, cosa ormai non facile perché lui intanto è diventato un giocatore strapagato, poi perché è preceduto dalla sua fama, è praticamente un alcolizzato, è inaffidabile, è difficile tenere una squadra con Best e altre persone completamente diverse da lui. Insomma, inizia un balletto di ingaggi, va a giocare in Sudafrica, poi torna in Inghilterra ma non in squadra di primo livello, poi va negli Stati Uniti e la stampa continua a parlare di queste sue trasferte come se fossero eterne vacanze, riempie i giornali con le sue storie d'amore con svariate Miss Mondo, oppure arriva la notizia di una sua memorabile sbronza. Insomma, lui dirà: ho speso il 90% dei miei soldi in alcol, donne e macchine sportive e il resto l'ho sprecato. Però in realtà tutto questo diventa anche un calvario che dura fino all'84, quando in Australia lui gioca la sua ultima partita ufficiale e si ritira definitivamente dal calcio. Inizia un periodo particolare, tipico degli ex calciatori famosi, interviste in questa o quella trasmissione, partecipazioni a eventi, apparizioni televisive, che mostrano però un uomo che sta ingrassando, che ha una lunga barba sempre più grigia l'immagine del bellissimo George Best si allontana sempre più, è vittima di quell'alcolismo che lentamente ha distrutto il suo fisico. Nel 90 per esempio partecipa a un famosissimo talk show presentato da Terry Wogan ed è completamente ubriaco. Terry, I like screwing, all right? All right. So what do you do with your time these days? Screw. I see. Ladies and gentlemen, George Best. Ve lo traduco io. Quando Terry Wogan chiede a Best cosa stia facendo di bello in quel periodo, lui visibilmente ubriaco risponde semplicemente scopo. Fine dell'intervista. Tutti a casa. E pensate che Wogan si era sincerato pochi minuti prima che Best non fosse ubriaco. Peccato che nei 5 minuti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione lui abbia dichiarato di aver bevuto un numero imprecisato di bicchierini. Lui fa il suo ingresso in scena, barcolla ed è solo il fantasma del Best che faceva impazzire le folle in campo. Nel 2002 George Best subisce un trapianto di fegato, il suo corpo è distrutto dall'alcol, questo è l'estremo tentativo per salvarlo, l'operazione riesce. Lui dichiara in numerose interviste di avere capito quanto l'alcol sia pericoloso e quanto la sua condotta di vita debba essere un esempio, al contrario, per i giovani su cosa non fare. Best ci ha provato a disintossicarsi in molte occasioni, nel 90 per esempio, lo stesso anno della sua celebre intervista da ubriaco, aveva detto queste parole in un altro show. Io non penso di essere alcolizzato, io sono alcolizzato. È un problema che mi accompagna da molto tempo, non l'ho mai nascosto, non me ne sono mai vergognato. Una volta sono andato a una riunione degli alcolisti anonimi. Ci sono stato con un amico e all'uscita siamo andati a ubriacarci. Ormai distrutto dal suo demone, nell'ottobre del 2005 Best viene ricoverato per una grave insufficienza respiratoria. A 59 anni ne dimostra molti di più e negli ultimi anni sembra avere acquisito un po' di maturità. Le interviste che rilascia sono più in linea con il personaggio di un ex campione che parla di calcio e parla dei suoi problemi da alcolista senza rinnegare nulla, ma affermando che nessuno dovrebbe prendere ad esempio il suo stile di vita. Però il danno ormai è fatto, è troppo tardi. Un mese dopo il ricovero, un tabloid inglese pubblica una foto nel letto di ospedale di George Best. Sono i suoi ultimi giorni di una vita vissuta al massimo. La didascalia dice «Don't die like me», «Non morite come me». È l'ultimo disperato appello che Best vuole lanciare ai suoi fans. D'altra parte, questo è ed è stato George Best. Good evening. George Best, perhaps the greatest footballer of his or any other generation, passed away quietly today with his family at his bedside. Così la televisione inglese il 25 novembre 2005 annuncia la morte di George Best al Cromwell Hospital di Londra. His was a life of bright talent darkened by drink. Ai funerali partecipano almeno 100.000 persone che hanno accompagnato il corteo funebre tra le strade della sua Belfast, dove è tornato a casa dopo la sua vita piena di colpi d'ala. E oggi l'aeroporto di Belfast è intitolato a George Best, in tutta la città campeggiano murales del giocatore, è segno che Best per la sua gente è e sarà sempre un eroe nazionale che ha tenuto alto l'orgoglio di un popolo, al di là di differenze sociali che hanno insanguinato il fiero popolo irlandese. Un'altra celebre frase di George Best recita più o meno così: una volta ho dato un taglio con le donne, l'alcol e le automobili, sono stati i 20 minuti più brutti della mia vita. In queste parole è racchiusa tutta la filosofia di vita di George Best, perché lui della sua vita non ha mai rinunciato a nulla, ha assaporato la gioia del gol, ha condiviso le vittorie coi suoi tifosi, però non si è mai sottratto al giudizio della gente sulla sua condotta al di fuori dai campi da gioco. E poi ha avuto le più belle donne di quel periodo, non solo in Inghilterra, in tutto il mondo. Non gliene è fregato mai nulla dei giudizi degli altri. George Best è stata la vera pop star del calcio. Mai come oggi abbiamo raccontato la storia di una vita straordinaria. E noi vi aspettiamo con altre storie. Scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it. C'è il nostro podcast per le puntate che avete perso o per risentirvi grandi puntate come è stata questa. E poi, se volete, interagite con me sul sito di Radio 24, sui miei social, sui nostri social. Insomma, se mi cercate, mi trovate. Ciao, a domani.